Attento, dici, c'è qualcuno? Sotto questo fischiare, che è successo? Ciao, ho provato anche la modulazione e i picchi per vedere se spiego. Questa radio deve essere con la vecchiaia, ha avuto gli ultimi coso di, come si dice, gli ultimi colpi di coda, perché ho notato che l'altro giorno mi avete detto la radio era più forte del normale, e io che posso dire, sono poco meno di uno, lo tenevo uno, adesso sono poco meno di uno, e i picchi di modulazione, non li ho mai visti così furti. Deve essere, come scalda col tempo, con la vecchiaia diventa più forte. Sì, ti devo dire che è anche molto larga come emissione, quindi capace di disturbi molto i canali a fianco. Può darsi, questo vabbè, capisce a me che cosa è. Ce l'ho da tanti anni e sono state fatte delle piccole manutenzioni qualche, forse un paio di anni fa mi sembra, un anno e mezzo fa, dai, diciamo 2 anni fa, da allora facendo le corna, non mi ha dato più problemi, perché c'era il classico problema di quelle che si spegnevano i display, eccetera eccetera. Poi ho visto che sta funzionando più che bene. Però su questo tipo di emissione, sugli 11 metri, riesce a dare mattana a un sacco di radio molto più sofisticate, che ho fatto delle prove e mi dicono tutti che va molto meglio questa. Sì, però devi considerare che molti ascoltano la radio e qualcuno le vede, le emissioni anche, le radio, è una cosa differente, capito? E nel complesso di una radio è molto importante non solo ascoltarla bene, ma anche avere un'emissione pulita, diciamo così. Allora, se tu c'hai modo di vederla, adesso ti metto altre 2 radio di gran lunga superiori a questa e mi fai i confronti di emissione, proprio che parliamo dell'emissione in radiofrequenza. Sì, devi tenere solo costante la modulazione, diciamo, non avvicinandoti e non allontanandoti dal microfono. Allora, memorizza questo, tu c'hai la cascata, no? Utilizzi il sistema cascata? Sì, è un sistema che controlla circa 1 MHz di banda. Allora, guardati bene questa modulazione e poi adesso facciamo la prova con l'altra immediatamente. Un secondino, il tempo di accendere. Ti sei già fatto? Vai! Questa è una radio molto più sofisticata e più recente di quella lì. Sicuramente la modulazione è diversa, più bassa. Sì, è più bassa, ma si nota subito che non ci sono le ali, ecco, per dire. È molto regolare. E quindi è un'emissione pulita. Allora, memorizzo questa qui, adesso faccio l'ultimo confronto con un'altra ancora, sicuramente più importante di quella di prima, anche se è meno recente. Un secondino, ti commuto la radio. E questa è l'altra, Gianfra. 1, 2, 3, prova radio. Questa è una radio di vecchia concezione, però all'epoca era il top del tipo di radio che, diciamo, che abbiamo parlato prima. Sì, la radio è ultima, più alta dalla precedente ovviamente. L'emissione è poco più larga, però niente rispetto a quella iniziale, capito? Quindi si può dire che anche questa è una radio pulita, pulita in termini spettrali e non in termini pulita di rumori come molti pensano. Infatti quello che volevo sentire a livello spettrale, non parliamo a livello di modulazione, modulazione sicuramente l'altra fa più da combattimento, più, diciamo, più espressiva, dai. Questa invece è una radio utilizzabile per altri tipi di cose e per altri tipi di emissione, magari qua sulla M non è che rende più di tanto, rende molto di più in banda laterale sicuramente. Sì, infatti. È così. Vabbè, io non te lo posso chiedere perché non c'ho. No, non so se ce l'hai qualcosa del genere, però. Per vedere la tua? Eia. Sì, che ce l'ho, però non in questo momento. Posso vederlo anche tu, ma sicuramente mi immagino quello che utilizzi non sarà sicuramente roba da giosta, sicuramente qualcosa di sofisticato, soprattutto quando stiamo parlando di apparati di nuova generazione digitale. Questo è un apparato vecchiotto, però all'epoca probabilmente era il top, diciamo, è una delle radio, per non dire la radio più venduta, di quei livelli lì. Sì, se non toccate di norma vengono già, cioè escono già ben calibrate, quindi tutti i parametri che dicono rientrano in quelle specifiche, solo che molta gente va a toccare senza sapere cosa sta facendo. e molti rimbalzano qua e là, su e giù. Infatti credo che sia la 27 sia l'unica banda in tutta la gamma da zero, che ne so, a 3000, in cui senti gente sempre regolare radio, toccare, cioè non c'è nessuno che fa colpo sicuro, capito? Questo è quasi inconcepibile su certi su molte attività, compresa anche quella amatoriale, tra l'altro. Sì, sì, pienamente d'accordo. Poi io, come te, e forse anche tu più di me, sono amante della modulazione pulita, chiara. Non mi piacciono a me i combattimenti, nel senso, cos'hai detto, scusa, come, qua, là. Invece la modulazione la chiamo salottiera, tipo quando ascolti un telegiornale, la televisione, seduto, tranquillo e pulito. Cercare nei limiti del tipo di emissione che stai utilizzando di avere il massimo delle prestazioni. Poi invece trovo quello che ti carica l'amplificazione, che senti tutto il vento, tutto quello che c'è intorno, televisione, il bambino che piange, il gatto che miagola e il cane che abbaia, oppure quello che è tutto pieno di eco, di effetto riverbero. Io, forse perché sono appassionato di alta fedeltà, parliamo di altre cose, sono molto scrupoloso e molto pignolo, non mi sono mai ascoltato, almeno qualche registrazione mi hanno fatto sentire, però non è la stessa cosa che sentirti in diretta. Con quella di prima potevo ascoltarmi in diretta perché c'ha il monitor, anche questa c'ha il monitor, però è un po' più problematico, non mi sono mai messo a toccarla, mentre con l'altra, la prima di tutti, io non mi sono proprio mai ascoltato. Sì, no, poi fa ridere il fatto che il maggior sforzo sugli apparati proprio professionali seri è quello di ridurre i rumori di fondo. Ci sono microfoni che costano un pacco veramente, che vengono usati in ambito aereo, ad esempio, soprattutto anche sugli elicotteri, e di lì è vitale avere microfoni che danno solo la voce. Figurati che in tempi antichi, non antichi nel senso tipo seconda guerra mondiale, quasi tutti gli aerei da caccia usavano quelli che si chiamavano all'epoca i laringofoni, no? Proprio per evitare il rumore del motore, che a quell'epoca veramente dovevano fare miracoli per ammortizzare tutto dalle vibrazioni, se non sarebbero state, la radio sarebbe stata inutile. E ho visto dei sistemi di ammortizzazione anche dall'apparato stesso per le vibrazioni, perché le valvole possono essere sciacquette a quei livelli, ti durano 10 minuti. Ed erano veramente micidiali, smorzatori, alta ingegneria della vibrazione. Sì, sicuramente, considerando che la componentistica non è come adesso, ci volevano componenti, ce ne volevano molto di più rispetto adesso, per dire, con un integrato ci sono 10.000 transistor. Prima l'operazione per avere la quantità di componenti di un integrato ci vorrebbero migliaia di valvole, adesso costruendo l'altro, per cui dovevano cercare di essere il più semplici possibili e il massimo di prestazioni e di, soprattutto di affidabilità. Quei metri lì erano solo vibrazioni, motori a pistoni, non erano neanche motori a reazione, per cui di cosa stiamo parlando. Adesso ci sono questi microfoni a cancellazione di rumore, tutto digitale, eliminano la frequenza impropria, quella che esce fuori dall'emissione, per cui cancellano tutto e c'è un'emissione pulitissima, te lo fa direttamente anche l'apparato, se c'è un apparato lo saprai meglio di me, apparati nuova generazione, equalizzatori parametrici, ti fanno tutto quello che vuoi. Sì, ma anche nel piccolo, adesso prendi i vigili del fuoco con la sirena sull'autopompa, dentro c'è rumore, quindi quando comunicano se hanno certi microfoni è una tragedia, perché non capiscono un tubo che li ascolta, e di lì è vitale sentire la comunicazione e quindi avere una certa chiarezza. Infatti su tutte le specifiche di quel tipo di radio, ma anche in quelle HF ovviamente, c'è sempre microfono con riduzione di rumore, eccetera eccetera, ed è una cosa importantissima. Se non c'hanno quello, guai. Penso anche alle navi, tutte le vibrazioni ci possono essere, quindi è importante. Sì, assolutamente, è fondamentale. Dimmi un po' di cosa noti rispetto alla solita radio mia, utilizzando questa con lo stesso microfono e stessa, diciamo, marca di radio, però di categoria superiore. La modulazione innanzitutto entro i limiti, e seconda è molto molto chiara, non c'è paragone rispetto a tante che sentiamo che si sentono più sottofondi e meno la voce, perché poi la sostanza è quella. A molti piace, molti ci aggiungono anche il discorso e quindi la poetica. A un certo punto uno rimpiace il cibo doppio, ecco. È una domanda, ma è molto più bassa dell'altra? Per me il volume è giusto, il volume è colloquiale, diciamo professionale. Quella di prima era una radio chiara lo stesso, molto larga, quindi se volevo vicino sicuramente lo disturbi, però da CB, non certo professionale. Ho capito, il segnale è cambiato qualcosa? Aspetta che ti devo vedere, prova. 1, 2, 3, prova radio, parlo rispetto al solito mio segnale. Ma non noto niente di particolare, questo è digitale, quindi non c'ha la nostra amata lancetta, ma il segnale è sempre forte comunque. Ok, no. Poi adesso cambiando discorso, una domanda. Ti ricordi quel famoso 950 azzurro? Sì, vale. Quello lì sto parlando. Perché lo voglio mettere in funzione, almeno utilizzarlo come ricevitore, perché quello dovrebbe avere un bel ricevitore. E tu l'hai utilizzato in 27, ti è capitato di utilizzarlo? Non me lo ricordo, onestamente. Perché era un apparecchio in realtà di riserva. Molto potente, però di riserva. Ora è un apparato utilizzato dalle cioè sicuramente lo utilizzano anche adesso, lo utilizzavano le ONG, quelle diciamo che andavano nei deserti lì ai medici senza frontiere e compagnia cantante, poi li usavano anche i vigili del fuoco come protezione civile per collegamenti a lunga distanza. E soprattutto è molto usato in Australia, perché se tu guardi sulle memorie fisse c'è delle località australiane che utilizzano molto anche il sistema telefonico. Quello lì andava accoppiato a un'antenna spettacolare che c'ha un grosso stilo, e l'accordatore all'interno dell'antenna, proprio una cosa mostruosa, è ovvio che tu puoi mettere su un gippone o su un altro carro, non certo su un'autovettura, perché il paraurti. L'unica cosa, non riesco a capire la logica di aver modificato il frontalino con questi due connettori microfonici. Io ho visto su internet della Radio Supplus che ti danno tutto il pannello frontale, costa 245 euro completo, pronto da installare, però non vorrei che avessero fatto qualche operazione di modifica interna, non capisco la logica, o per usare due microfoni in contemporanea. No, probabilmente ti spiego cosa può essere successo. La radio può essere utilizzata anche per la trasmissione dati, però la trasmissione dati avviene su un sistema operativo che oramai non è più in uso, e quindi oramai tutti i sistemi operativi, Windows 10, Linux eccetera, sono richiedono determinate specifiche, non certo il DOS. E quindi sotto quel profilo probabilmente hanno fatto qualche modifica microfonica per la possibilità della trasmissione dati, che con quell'apparato è molto importante, però ovviamente la trasmissione dati la devi avere con i mezzi attuali, non con i mezzi di 15 anni fa, 20 anni fa, ecco. La radio c'ha anche il GPS, ho visto. È fornita di GPS e, se non ricordo male, anche di scrambler. Non lo scrambler, non lo... ci dovrebbe essere, c'è come opzione, perché su questa radio, su tutte le radio professionali, sai che ogni cosa c'ha il suo modulo che si attacca al GPS, c'ha il suo modulo e così via. Ecco, c'ha sicuramente l'ALE, l'automatic linkabile, che serve per avere sempre un collegamento sicuro in HF, utilizzato da quasi tutti gli enti, puntini, anche dai radioamatori naturalmente, però è un sistema un po' più ridotto. quella notevole, veramente una cosa utile. Ma sono da molto che non la utilizzo, un annetto, la volevo rimettere in funzione almeno per utilizzarla come ricevitore. Come fa 0,30 o sale anche di più questa radio? La versione 0,30 adesso è stata sostituita da un'altra radio che è in versione SDR con display particolare, con tante funzioni, compresa quella telefonica, anche quella chat, però ovviamente è molto più miniaturizzata, compatta, eccetera eccetera. I prezzi sono quelli che si può immaginare, però è bellissima, è veramente bella. Non mi ricordo la sigla, però l'avevo vista, c'è lo schermo colorato, tutto. Quella lì è sicuramente una radio robusta, però sicuramente se uno la vuole tenere per usarla si deve affidare a qualcuno che c'è un laboratorio veramente serio che la possa rimettere a nuovo, ed è ovviamente il costo, penso che sia abbastanza alto, perché le parature di quegli apparati devono essere fatte in maniera certosina, non dal primo che passa di lì. Okay. Poi c'è il beacon, si chiama, per le cose meteorologiche, per vedere la propagazione, per quello? Quello probabilmente ogni tot, siccome è usato proprio come potete in Africa, in Australia, eccetera, manda la funzione GPS alla centrale base, quindi ogni tanto, come una PRS in poche parole. Ah, quindi diciamo tipo un transponder che per indicarti la posizione dell'apparato? No, il transponder è un'altra cosa. Quello lì ogni tot di tempo manda un segnale che dà la posizione del veicolo praticamente. Questo serve nel caso poi succeda qualcosa, e quindi la centrale può risalire perlomeno all'ultima trasmissione in maniera certa. Che ne so, ci è mancato il segnale quando l'auto si trovava ad Alghero, per dire, e da lì in poi era una posizione abbastanza precisa. Fanno un cerchietto calcolando il tempo del prossimo in cui doveva essere il prossimo, diciamo, segnale, se riesce ad amministrare la zona abbastanza bene. Sì, volevo dire quello lì, dai, ci siamo capiti. L'unica cosa non capisco è il discorso del telefono, come fanno a interfacciarlo al telefono poi? Beh, lavorano in semi duplex, come lavorano tutti i sistemi navali anche. Adesso non so se sono, penso che c'è il satellitare, però prima che utilizzavano molto l'HF, li sentivi, se tu hai mai ascoltato portatore radio, tagliare radio, sentivi che all'utente davano la frequenza, prima facevi il contatto e poi ti dicevano passa, che ne so, su 2882, cioè su 2082 e cose del genere, tiravano la frequenza. Praticamente la stazione base era in full duplex, mentre la stazione in movimento era in semi-duplex, quindi non c'era problema, ma d'altronde anche tutti gli apparati amatoriali lo possono fare questo lavoro. Quindi quell'apparato, tra l'altro, probabilmente la stazione base era addirittura automatica, quindi tu se vai nel menu sicuramente vedi la possibilità di fare il numero telefonico, quindi premi il pulsante, lei manda il segnale richiesto, una volta contattata la base le risponde e la mette in linea con la linea telefonica normale. È una domanda, tu l'hai mai usata in HF con la radio? Sì, in HF soprattutto in recezione sì, ti posso dire che meraviglia un po'. È una recezione innanzitutto molto stretta e si sente, Tant'è vero che in CB quando qualcuno usava l'eco o modulazione tipo quella attuale di prima, la tagliava a pizzi proprio, mentre le modulazioni tipo quella che puoi avere adesso erano ad una chiarezza telefonica praticamente. È molto selettiva, diciamo, come larghezza di banda. Sì, molto stretta come tutte le radio di quella categoria. Ecco perché molte non vanno bene in 27, perché innanzitutto non sono fatte per la M, sono fatte per la banda laterale, e nella banda laterale ovviamente esprimono tutta la sua potenza, diciamo, tutte le sue prestazioni migliori. E tra l'altro quella spinge anche, mi sembra c'ha 100 watt quella radio, no? In banda laterale sì, ma guarda, sempre su quella categoria di radio, qua in una, te l'ho detto, non c'è il Motorola, la potenza esatta è di 125 watt per la banda laterale, e quelle radio lì tra l'altro hanno anche la specifica per l'utilizzo in telescrivente, che notoriamente è molto pesante, perché fai secondo il messaggio che trasmetti in trasmissione può rimanere anche per parecchi minuti. Sì, no, è sovradimensionata, bella, bellissima fattura. L'unica cosa, cioè, devi andare per intuito, io sono entrato su menu, ci sono sotto menu, un sacco di cose, però ho visto le connessioni, quando attaccavo il microfono, certe funzioni non funzionavano, allora dovevo togliere il microfono per entrare nei menu, dicevo, ma è possibile, non riesco a impostare la frequenza, poi alla fine mi sono reso conto che era il microfono che ti bloccava le funzioni, insomma c'è quei tatti, non dico touch screen, tipo touch screen, già la conosci meglio di me, sicuramente, però avrei voluto il manuale, solo i manuali di questo tipo di apparati, chi cacchio te li dà? No, il manuale c'è online, in caspita se c'è, ed è anche in italiano, è una cosa abbastanza lunga, complicata, ma chi usa quella radio usa solo quelle, quindi è chiaro che bene o male può imparare a usarle bene. Ah sì, certo, quando l'avevo trovato io non ero riuscito a trovare niente, avevo guardato su Radio Supplus, la vendono questa radio e costa una marca di soldi, che presente solo il frontalino, l'ho vista quest'estate, costava 245 euro senza tutto il circuito, perché lo danno anche col circuito, diciamo la parte con la scheda dietro elettronica, solo il display, diciamo la parte esterna, costava 2,45. Aspetta, quella è la 950, perché io qua vedo no, ecco, quella bella che dicevo io, la sostituzione, è la 4050, la 4050 che è piccola, veramente frontalino attaccabile, costerà un patrimonio, guarda, è meglio non sapere il prezzo perché è spaventoso sicuramente. E quella lì era la 4050 forse, sto cercando di ricordarmela, no, aspetta, non la 4050, la 950, sì, è la 950 quella. Sì, confermo, 950, quella blu che c'è il tastino d'accensione rosso. Sì, da 6 a 30, 125 watt infatti, è lo standard delle HF professionali, 125 watt. USB, J3 Echo, LSD, poi H3 Echo, GV, J2A, RF3K. Telefonate dirette fatte da tastiera, chiamata selettiva, anche infatti dice anche che un pulsante dovrebbe essere d'emergenza, quello lo premi nel caso ti fanno fare qualcosa del genere, che trasmette immediatamente il GPS. Sì, l'ho visto, allarme, è quello lì. È quello che utilizzano molte volte quando ti abbattevano l'aereo, cioè avevi un orologio, c'è un orologio, vabbè, un falso, dai, dalla Breitling, che quando ti abbattevano, cadevi in mare, con questo orologio aprivi e ti battevano una frequenza di impare, non mi ricordo se era 333 kHz, una frequenza di soccorso, e svitavi questa corona nel cellulare nell'orologio, un orologio meccanico, stiamo parlando della Breitling, super professionale, che avevano fatto per le forze, non so se erano inglesi o francesi, si stava ripetendo che usciva una piccola antenna da lì, vedete, cadeva in mare e mandava un segnale di cosa per ritrovarti, dai. Sì, una specie di FB. Sì, bellino, io ce l'ho, bellino, ci tengo tanto, però è un, diciamo, un orologio rifatto, nel senso di quelli che utilizzano i cloni, dai, perché chissà l'originale cosa costa, probabilmente è solo a livello professionale, non so neanche se c'è in commercio. L'ho visto su una rivista di roba militare e poi mi è capitato qua, ma bello, c'ha una cassa, tu vedi come è costruito, c'ha un doppio display digitale e poi c'è questa roba qua a lancette analogiche, e qui c'ha questa possibilità, vabbè, non il mio, che parlo il vero, c'ha questo sistema di ritrovamento. Sì, ma anche ti dico che i manuali in realtà ce n'erano due, uno era il manuale d'uso e l'altro era il manuale di servizio, io adesso ne ho trovato uno che ovviamente, questo in inglese, spiega tutte le funzioni, d'uso, è abbastanza grosso, ma il manuale anche questo, perché si chiama manuale, è solo d'uso. Vediamo se c'è anche, io me lo ricordavo con tutti i segni, si dice come piazza l'antenna, che tipo l'antenna, infatti ovviamente c'è anche la sua antenna originale, che come ti ho detto è un cilindro con un bellissimo filo, in cui è specificato che l'attacco va in versione NVIS praticamente, no? Quindi non antenna allungata, quindi verticale, ma che ripiega sulla carrozzeria, infatti c'è un acquisto isolatore anche nel manuale, poi c'è un'installazione marina, insomma è una cosa abbastanza complicata. No, ma la cosa mi ha un po' stupito è il fatto che questo è un prodotto australiano, io non pensavo gli australiani avessero le tecnologie, normalmente si parla di tedeschi, americani, italiani che costruiscono radio, australiani che facevano radio, sinceramente sono rimasto stupito, considerando che è un apparecchio che lo usano anche negli Stati Uniti, anche le forze, diciamo, protezione civile, eccetera, eccetera. No, non ti deve stupire, perché l'Australia è un paese che ha poche città grandi tipo Sydney, Melbourne, però sono poche città in confronto al concetto che abbiamo noi. Tutto l'altro o è deserto, o è roccia, o è mare, o è terreno comunque impervio, quindi se ti perdi di lì forse è giusto un aborigeno ti può trovare. E quindi hanno queste radio, hanno queste produzioni molto robuste sicuramente e di qualità. Ovviamente di pari passo ci sono altre marche, questa nello specifico si occupa di apparati definiti commerciali, che non sono da confondere con quelli amatoriali, attenzione, commerciali e militari, quindi hanno quel brand e lì danno il meglio di loro, sono abbastanza famosi. E poi riguardo alla produzione di questa tipologia di radio, ce ne sono altre a seconda di come le devi usare, c'è la Boeing ad esempio che produce anche dei radio particolari, c'è l'italiana che è grossissima, la Selex De Mardo, che sta lanciando la sua ultima produzione, l'SDR militare, anche per dei piccolissimi portatili a uso tattico. Insomma, ce ne sono, non sono tante, ovviamente poi c'è quella che era o è la regina di tutte le radio, sogno nascosto di qualunque radioamatore, che è la RadioSat. Quelle però sono sogni, ecco, a meno che non si chiami Berlusconi, ma... Sì, no, vabbè. si stava parlando di apparecchi di controllo, diciamo, non solo apparecchi di trasmissione, utilizzano per tarare gli apparecchi di trasmissione, cioè se tu vai a costruire una ditta che costruisce il trasmettitore o cosa del genere, quando prende uno strumento dal laboratorio, il topo del topo deve andare su quel marchio che hai nominato tu. Quindi se ti vuoi fare vedere il ricevitore che ho io professionale, guardati questo qua, se riesci a trovarlo, perché ci ho perso tempo a trovare HTL il marchio, e poi scrivi HAM2C5, ricevitore professionale del tedesco, paragonabile ai Rode Spazio, questo è proprio da laboratorio. Non deve essere molto famoso. HTL è la marca o un'abbreviazione della marca? HTL è l'abbreviazione degli ingegneri, non so come si pronuncia, AUC, è scritto EUC, W, poi Tecno Laboratorio di Berlino. Questa qua è una ditta che costruiva tutti questi apparati professionali, guardatelo se c'è modo di vederlo. Ti dico solo un confronto, io avevo il 7000 e ho ancora l'ICR 7000, io faccio i confronti con i segnali deboli. Allora se io entro su questa frequenza qua, in FM parliamo, perché questo fa la 30 e poi da 88 a 108, c'ha tutte le funzioni, come si chiama, preamplificatori, attenuatori, uscite per oscilloscopi, eccetera eccetera, frequenze campione, e io accendo l'ICR 7000 che è un ottimo ricevitore almeno all'epoca, non sento niente, la stessa antenna collegata allo stesso apparecchio, l'ho fatto sentire a Claudio, perfetto, addirittura riesce a agganciare anche la stereofonia, è una cosa impossibile da capire se solo se lo vedi, dici non è possibile che ci sia un guadagno di segnale tra un ricevitore e l'altro, e 7000 non è un giocattolo, per dire, io avevo il 3000 e paragonato il 3000 al 7000 è un giocattolo, questo qui il 7000 è un giocattolo paragonato a questo apparecchio qua, c'ha una sensibilità, una selettività spaventosa, silenzioso, non senti niente, sporcizia, riesce a tirarti fuori i segnali adiacenti quando sono attaccati, forse te li tira fuori, anche c'ha un sistema di scompartimenti all'interno, pesa più di 20 kg, una cosa enorme, presente, c'è un 940, questo è più grande del 940, cercalo, se ti viene bene scrivi, il modello è HOTEL Alpha Mike 265 prodotto da HTL. Sì, R265, vediamo cosa mi dice, ho già trovato qualcosa, è fatto sicuramente da una casa aeronautica, la Ugels americana. No, questo è di tedesco, guarda, se no entra Radio Museum e poi scrivi Radio Museum HAM265, ci sono le fotografie, le uniche informazioni le trovate su questo coso qua, dove ci sono i dati caratteristici principali di questo apparecchio, eccetera eccetera, cerca tu Radio Museum e scrivi il modello HOTEL ancora Milano 265 e ti appaiono le foto a colori di questo apparecchio di cui sto parlando. Sì, sai cosa c'è, che quella sigla è molto comune su altri apparati ugualmente radio HTL, infatti mi ha mandato subito sulla Ugels americana, che fabbrica, e c'è un manuale ricevitore HTL, HD, HNS, poi c'è il ricevitore satellitare IRD-82, per quello che ha detto che c'entrava la Ugels, diciamo. Di che anno è? Allora, è stato prodotto la prima volta nel 1978, cioè, paese Germania, produttore marca EUC W Technol Laboratorio e Berlino, categoria ricevitore professionale, può includere anche le bande radioamatoriali, cioè, ci sono tutte le caratteristiche. Sì, sì, vabbè, quello so, potremmo risparmiare, quasi tutti i ricevitori professionali includono le bande amatoriali, forse altro, perché molte bande radioamatoriali sono state secondarie, e quindi è normale, ecco, la cosa lì, sì, è grande, infatti più o meno dovrebbe avere la stessa età di quello che avevo io, che era della Classman, il vicino, mi ricordo cosa, la tartaruga, dai. L'hai trovato o che cosa? No, non l'ho trovato, perché mi dà sempre questi ricevitori hanno chiamato successive, però sono prodotte dalla da questa casa che c'è ancora, ovviamente, che faceva anche sistemi aerei, tant'è vero che fa anche radio VHF, sistemi di comunicazione complessa. Questo faceva più che altro strumenti di misura, infatti sto guardando qua, e ha costruito negli anni 70 anche un televisore, ho visto, il primo apparecchio che ho visto qua dal 49, cioè dal dopoguerra, no anzi 48, c'è una radio del 48 che ha fatto, questa ha lavorato sino l'ultimo che ha prodotto, 100, invece che sia quello che c'è, no, 1985, l'ultimo che hanno prodotto qua di apparato. Quello mio è stato costruito nel 78, però considerando la tecnologia del 78 paragonata a un ICR 7000, che è un apparecchio, parliamo dopo gli anni 80, quello che c'ho io sarà degli anni 90 perché è l'ultima serie che hanno fatto, ti fa 10-0, proprio non c'è confronto. Sì, ma guarda, secondo me il confronto non ci può essere per il semplice motivo che provare radio di quelli villi, molti la definiscono lo stato dell'arte, e realmente lo sono, perché in qualche modo fanno la storia. Io stamattina stavo provando un apparato che ho qua chiuso come apparato così per ricevere, e siccome è uscito l'aggiornamento l'ho applicato, ed è, ti posso dire, una radio che vendono dappertutto, la Nittone 5, 8, 5, una cosa del genere, plus, ed è DMR, un veicolare bibanda DMR, e c'è anche un costo, diciamo, intorno alle 400 euro, quindi è abbastanza caro tutto sommato. Beh, messo a confronto di un monobanda dell'Etera, che è la mia marca di riferimento, ti posso dire che è come parlare, che so, della Luna, e parlare di una torcia elettrica banale. Il paragone non può essere che quello. Tu figurati che dopo aver fatto l'aggiornamento ho notato che in certi tratti, a parte che l'emissione è quello che è, ma ho notato che in certi tratti addirittura rimane in trasmissione, pur non trasmettendo, tira, sta facendo il rosso, però fortunatamente non va in trasmissione, ma neanche in ricezione, non riesci a spegnerla. Cioè, ma ti rendi conto, una radio da 400 euro, ne spendi 100 in più e ti prendi un'intera monobanda, che questi difetti sono inconcepibili. Sì, si è detto bene, quelli stiamo parlando di apparati professionali, quelli che abbiamo detto sono apparati amatoriali, commerciali, anche quelli di categoria più bassa. Poi c'è questo amico, quello che mi ha dato il radiogoniometro, che lui è molto appassionato allo stesso di ricezione, lui l'ha venduto, mi dispiace, infatti ha detto trovandolo, non so se conosci quel Racal, quel ricevitore professionale che usavano nelle ambasciate di quasi tutto il mondo, la maggior parte erano inglesi, quel ricevitore professionale enorme, lo usavano nelle ambasciate. Una bestia di ricevitore, io l'ho visto su internet, ma a cifre assurde, qualcuno è riuscito a buscarlo ed è capitato in mano a lui, a questo tipo, questo di Cagliari, lui sta sempre masticando con questi gruppi di amatori, cioè, ed è riuscito a trovare quello della Racal, professionale delle ambasciate, non so se l'hai mai visto. No, io avevo visto un oggettino molto molto bello che era in uso proprio dalle ambasciate per lo spionaggio elettronico, andava credo da una sulla frequenza HF fin sopra alle stelle, e il prezzo non era così basso, credo, cioè non era così alto come la marca farebbe pensare, ovviamente di seconda mano, comunque, certo. Ed era intorno alle, credo, 3.000-4.000 euro, ma stiamo parlando del plus ultra. scusa. Sì, sì, no, questo è una bestia, è una cosa bello anche a vederci, stiamo parlando dove non è un giocattolino, cioè ci vuole anche spazio per farlo funzionare, ma sono, c'erano delle funzioni, poi era, non so cosa cacchio di concezione gli hanno messo, non so cosa resisteva, da che caduta lo sbattevi a terra, cioè tutti i sistemi di cose, perché quando hanno fatto particolato per produrlo, cioè, non so quante ditte si sono presentate, alla fine hanno deciso di utilizzare questo perché era indistruttibile, lo sbattevi a terra e continuava a funzionare. Sì. Ma sono fatti io, tu pensa che tutti avanti ieri studiando sempre le cose un po' particolari, ho visto il bilancio americano, no? E lo sai che questi imbecilli hanno dato tonnellate, credo stiamo parlando di 10.000, 20.000, su queste cifre numeriche, no? Gli apparati sia della Datron sia dell'Iris li hanno lasciati di lì ai talebani. Guarda, se non ce n'è da piangere, se tu vedi questa radio ti puoi solo mettere a piangere, perché sono delle radio di ultima generazione, l'Iris poi è troppo anche quella, c'è solo da piangere in mano ai barbuzzi. Vabbè che hanno scoperto che c'erano anche l'intera, ma c'è solo da piangere. Questa gliel'hanno regalati con uno stanziamento speciale dall'esercito afghano di parecchie migliaia di dollari. Hanno una cosa da spararsi. Non lo so, purtroppo forse solo le radio, perché anche gli elicotteri, dice, qualcuno l'hanno sabotato, aerei, carri armati, di tutto, mezzi blindati, di tutto di più li hanno portato. Hai visto anche i visori a infrarosso ci avevano, poi cacchio, quelli lì, tutti vestiti tipo i marini sudamericani ed erano talebani, lasciamo per. Ma noi ci stiamo meravigliando di quello. Proprio oggi io sono iscritto a un gruppo di quelli che piacciono i tralicci, i ponti televisivi, gente con le palle, perché vedo cosa fanno, ti mette le mani in testa. E questo ha pubblicato proprio oggi una stazione trasmittente TV di 2 kW con tutta l'attrezzatura della Irte, ma tu vedi cosa c'è dentro, in demolizione, dice, questa roba va a finire al macero, tu vedevi cosa c'è, ma ancora apparecchiature attive, infatti questo ha detto, queste possono ancora utilizzarsi tranquillamente in digitale per il sistema nuovo digitale terrestre, e hanno cambiato tutte le apparecchiature perché secondo loro sono troppo grandi, consumano troppa energia, adesso ci sono i sistemi più evoluti, dai, di ad alto rendimento, però cacchio, sono apparecchi, se tu li guardi ti metti le mani in te, tutto al macero. Io ho visto delle cose qua, un rottamatore di Sassari senza far nome, gli impianti della Telecom, di cose che tu dici, ma è possibile che ci hanno buttato tutta questa roba, ma cose, c'erano tante di quelle cose ancora efficienti, oppure di cose recuperabili, e tu rimani a bocca aperta e la buttano via, dico, ma dalle a qualche amatore, a qualcuno, mettile, fai tipo un'ata, un'offerta forfettaria alla Telecom, dicevi come faceva la SIR quando c'era la SIR, quando vanno a smaltire gli impianti e di demolire, diciamo, sta vendendo questo, chi lo vuole, tu fai un'offerta anche ridicola e te lo portavi via. Noi avevamo preso tante cose all'epoca quando chiudevano gli impianti della petrolchimica, e così dovrebbe essere per questi impianti, ne buttano certi tralicci completi di tutte attrezzature e antenne. L'altro giorno sopra il vialetto, per fare un esempio, hanno sostituito l'antenna del vialetto della telefonia e c'era il traliccio con tutte le antenne attaccate, pigliate e buttate in terra. Io dico, quello va a finire al ferro vecchio. Guarda, io ho chiesto a uno che fa determinati lavori per noi se si potevano recuperare i cavi della ex questura. Sai qual era il problema? Era che per darli a qualcuno dovevamo fare 3.000 pratiche. Tra l'altro c'erano anche i tralicci, come avrei visto per tanto tempo, non so se ci sono ancora sognando tutti, credo che li abbiano tolti. Quindi conveniva più prenderli e buttarli via. Da noi ad esempio avevamo tanti trasmettitori a microonde e sistemi laser. Sto parlando di laser, ce l'ha venuto a 35.000 euro, ecco. Delle lenti da paura, ovviamente, e queste servivano per collegamenti dati a banda larga con distanze di anche 30 km. ipotici, ovviamente in linea ottica, anche perché le frequenze erano molto alte, 5 giga, avevamo quelle più vecchie erano a 2,5 per frequenze su canali particolari. Beh, è finito tutto a macero, tutto distrutto, parabole. Insomma, guarda, i cavi erano originali della Amperol, ho guardato il costo a metro, guarda, da piangere, da paura, eppure le prese. Figurati che qualcosa ancora, che fortunatamente non ci hanno detto niente, è ancora piazzato in dei posti che praticamente non sono nostri, perché sto proprio anche in altezza, ovviamente, e ci sono roba di 4-5 antenne, sempre a microonde, 3 o 4 laser di quelle cifre, ma proprio non la gente anche se dice non so neanche cos'è, non si possono regalare, si possono solo buttare al macero. Sì, è quello che dispiace, vi dico, ci sono associazioni di radioamatori, appassionati, dice beh dammelo a me per buttarlo, se tu vai lo sfascia carrotta per dire lo trovi, o non te lo danno, oppure l'hanno già schiacciato, oppure no, te lo fanno pagare un sacco di... Ci sono cose interessanti, tu se sali a Oslo, per fare un esempio, molto vicino, senza salire alla stazione degli americani su Alimbara, che quello è una cosa vergognosa, si erano attaccati anche i tubi, oltre che tutti gli impianti che c'erano, hanno portato via tutto, i tubi da sottoterra per recuperarsi il ferro, per dirti. Se vai a Oslo c'è una piccola stazioncina, postazione, credo che sia della Telecom in disuso, perché poi hanno montato altre. Tu dentro ci sono i rack delle attrezzature, tu per dire, vai oggi, domani ritorni e trovi che ci manca qualcosa, l'hanno disintegrato, ci sono ancora le parabole, tutto il tralice, ed è un peccato, per dire, qualche radioamatore dice beh me ne occupo io, lo smonto io e me ne arrangio io della demolizione, non te ne danno niente. Ok, dico, uno non riesce ad avere il contatto giusto, perché se c'è il contatto giusto, per dire, se c'è amici all'Enel ti danno i pali, se c'è amico alla Telecom dice mi sono in campagna per fare una recensione, cioè anziché buttarlo il camionista che sta andando a buttarlo passa dalla traversa e te li scarica in campagna, come facevano con le traversine dei treni eccetera eccetera, deve avere il contatto giusto e mai riesce a beccarlo, se no tutto va al macero. Sicuramente sì, però tieni presente che c'è anche un altro problema che molti non considerano. Se io ti devo mandare a attaccare un ponte radio, sia esotico, sia a microonde, eccetera, a buttarne giù il tralicio, perché una volta che lo tocchi, ovviamente il proprietario da fondo ti chiede portati via tutto, ecco. Una volta che entri lì non è che mi lasci il traliccio, magari capi appunto, si può fare via tutto, ripristinare, come si dice, lo stato dei luoghi, come era in origine. E tutta questa gente deve essere abilitata, cioè deve avere proprio rispettare tutte le norme di sicurezza, tutte le specifiche, perché se c'è qualcosa, qualcuno potrebbe anche andare dentro, se uno si fa male e non è qualificato, succede un disastro, non è che ci va dico la gruetta, tiri tutto, trascini e fai altri danni, magari sul soffitto, sul tetto, quello che è. Quindi lo fanno l'appalto e magari nell'appalto dei nuovi apparati ci mettono anche la dismissione di quelli che ci sono, quindi la rete cazziata toglie e rimette, dovrebbe essere così, quindi tanta roba va diciamo perduta. Tieni presente poi che un attimo, molti di questi apparati, anche se sono di norma tutti più che funzionanti, cosa succede? Che con le nuove tecnologie non vanno più bene. Vi faccio l'esempio nostro, ad esempio è difficile, molto difficile tentare anche di adattare su un sistema di apparati marcati, di norma è sempre la stessa marca che li tratta, adattare a parecchi vecchi di 5 anni, perché nel sistema sia di telecomunicazioni e sia di informatico dati l'apparecchio medio la vita media di un apparato è considerata di 5 anni, dopodiché anche se funzionante è obsoleto, perché certe cose non le fa, ma anche nelle radio, tu guarda le radio che stanno cantando il CCDS, e chi è che può competere con quelle? Prima importante non ti sente più nessuno, figurati. Aspetta, c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, chi è avanti che vuole entrare? Quando stavi parlando hanno messo un colpo importante, non so se sia qualcuno che stava ascoltando, Mario voleva far vedere che stava ascoltando, anzi vedere, far sentire. No, anzi, meraviglia, perché spesso si ha l'impressione che il discorso che facciamo noi potrebbe benissimo essere a livello anche radioamatoriale, eccetera. Sulla 27 spesso è mal accolto, non capisco il perché, spesso anche viene interrotto. Io ho pensato sempre che ciò fosse dovuto al fatto che si preferiscono sempre discorsi leggeri. Ieri sono andato a via Carmelì, ieri sono andato a fare questo, cioè cose molto leggere, non che richiedano un po' di impegno, un po' di conoscenza. Mi sbaglierò, ma a volte ho avuto questa impressione. Sì, sì, verissimo, chiaramente d'accordo. Qualcuno intelligente, Mari, non interviene, poi Mari viene a salutare, si stava ascoltando la discussione, è molto interessante. Come io faccio molte volte, vado su ascoltare su altre cose, quando ci sono argomenti, soprattutto di persone molto più preparate di me, su quel tipo di argomento che a me mi interessa, ascolto e tu dico, vabbè, non potrei neanche entrare su quelle frequenze, però ascolto. La stessa cosa, se io sento un argomento che stanno parlando, cosa so, di una cosa che mi interessa, che io non sono competente, però ho interesse a ascoltare e non mi metto a fare lo scemo a disturbare, soprattutto poi Mari interessa per intervenire, ringrazio, dico una bella discussione interessante, poi ci sono i sapientoni molte volte che si mettono a intromettersi senza cognizione di causa e quello è ancora peggio. No, no, ma io non dicevo, forse è anche colpa nostra che non ci spostiamo di canale. No, io dico un'altra cosa, vengano, anzi se c'è qualcuno che capisce poco o vorrebbe capire di più anche per un arricchimento personale, può anche entrare, anche in gamma amatoriale può entrare, scusa, ho sentito un termine che non riesco a capire, sto scrivendo il vostro questo, mi piacerebbe sapere cos'è un determinato termine, cos'è un determinato apparato e per cosa viene usato, ecco, quello lì sarebbe un'estensione anche del discorso, ma non dire, che ne so, entrare e dire, ah ciao, sai, ieri ho visto il tizio che si è sbattuto, cose di questo genere, che non c'entra niente con l'argomento in cosa. Se tu sicuramente hai occasione di ascoltare anche discorsi in HF, che quelli interessanti in realtà sono in banda 160, in banda degli 80, perché sono frequenze un po' più difficili per gli altri, diciamo così. Però lì fanno dei veri questi, che sono anche parecchi, interviene anche molta gente che dice la sua, però è un discorso sullo stesso filo, ho capito. Ma anche da altre parti, su altre frequenze, sento che sono così. Qua è un po' più difficile stranamente, benché siamo molto ma molto più vicini tra l'altro. Sì, sì, finalmente d'accordo. Ti lasciamo un attimino di bianco, se qualcuno nel frattempo è interessato a entrare avanti, chi vuole entrare su questo canale. Nel senso, guardando in giro c'è qualcuno più in alto, c'è un quattro più in alto. Su che canale? Mi dovresti dare un secondo perché io vado le tracce. Sul 23 molte volte entrano altri amici, dai, c'hanno quel gruppetto loro. Il 23. Sì, sì, allora, lì non ho mai stanno altri quei gruppetti, dai, di quelli più anziani di frequenza. Questo è il canale dei cosiddetti più giovani, dai, dei più bellini, dai, quegli altri sono un po' più grandicesi, almeno da parte mia. Anche da parte mia, aspetta. E niente. Vabbè. Comunque qualche cosa interessante c'è, dai. Oggi io perché non acceso gli altri praticamente. Anzi, giusto uno ce n'era acceso da solo, oppure sono acceso. E quindi non ero in versione dual, ma in versione singola. quindi stavo facendo una cosa dal computer, ho sentito il risposto. E comunque c'è scappato un questo che spero sia interessante anche per chi hai ascolto. Sì, no, ma guarda, molte volte, diciamo con te tante volte capita, abbiamo sempre argomenti belli comuni, diciamo, come interesse, c'è sempre qualcosa da confrontarsi e mi piace tantissimo. Poi è capitato anche con altre persone, argomenti che non c'entrano niente col discorso della radio, perché se ne ha parlato un periodo, era venuta una bella discussione che hanno partecipato tanti, quando si è parlato della stazione spaziale, di ascoltarla, di vederla nel cielo, cioè, ho visto che qualcuno si è interessato, poi si è parlato di argomenti che non c'entrano niente, per dire delle acque, e lì Claudio dice la sua, ci ha raccontato le sue esperienze, e lì sono sempre informazioni anche se non hanno niente a che vedere con gli argomenti di radiofonici, però poi per dire, parliamo di cosa ti posso vedere, del mio campo di lavoro, per dire, qualcuno può anche interessare, tu adesso c'hai un tipo di lavoro che lo stesso c'hai degli argomenti che ci puoi raccontare le tue, è sempre bello, però come hai detto tu molte volte ci sono argomenti, mi ho preso la medicina, ho portato il cane lì, ho fatto quello, non per dire, per criticare, però è bello quando si fanno anche argomenti tecnici di discussione e di domande, nel senso qualcuno magari dice ma come mai funziona così, ma trovi una persona che in quel momento su quell'argomento ti può dare delle informazioni ed è interessante, sarebbe sempre bello averle queste, tipo più spesso, diciamo, non sempre ma più spesso. Sì, no, ma anche raffrontato, diciamo, lasciando da parte la radio adesso, è raffrontato alla vita comune, metti che tu stai parlando con una persona, ecco, sta facendo un argomento particolare, sarebbe scorretto andare a dire ah sì, ma quello io lo conoscevo da quello che si è lasciato con la moglie, eccetera eccetera, cioè, penso che chiunque ti guarderebbe male. Sì, assolutamente no. Poi purtroppo è capitato anche nei miei confronti qualcuno, ti posso dire, io ci avrò tanti difetti, però non sono tipo, almeno cerco di non esserlo, forse darò l'impressione del presuntuoso e cose del genere, però qualcuno si è lamentato, il professorino, eccetera eccetera. Io se c'è una persona, come nel caso che sto ascoltando a te, che mi dà delle informazioni, mai mi permetto di dire mi guarda questo è presuntuoso, purtroppo qualcuno l'ha detto. Beh, anche in questo caso, vabbè, quello è capitato.